direttamente da un canale di ieri qua di Ragamo, non so neanche come definirlo il canale, ma è un bel. Ma non mi fa la gara che fa così, scusa, è una storia. Ma un gioco, boh, mi vedo con voi, boh, non so cosa fare con la sua parente. Però è così, è da gran vinto. Infatti, passamente che mi era da miglior ratti in casa, sai? Non è quello il problema, allineare gli aspetti, non è gli aspetti. Faccio una via qua, mi decidete di allineare, se intanto se la allini una persona, e se mi lo faccio qui. Solo che non c'è antenna, devo mettere l'antenna qui, e qui io metto un'antenna, voglio dire, si stava qua, già solo con l'antenna anche qua. Anche di solito di fare quattro di lineare e non lineare, ma per mettere, ma per la non fare acqua, doveva avere l'ordine. Non mi fa rispettare, non mi fa rispettare tutti i 40 minuti che sono pure.